ahí, Diego. ¿Cómo estás, Fernando? Possiamo cominciare. Potete fare un giro di prova, se va tutto bene, cominciate. Va bene. E che cosa dobbiamo fare? Diccelo tu, che noi non lo sappiamo. Pure per favore. Oh, c'è. E io parlo tanto, capito? Purtroppo. Vabbè. Sono il basso tra letto. Va bene? Ok. Dai, allora. Puoi dare poco di chitarra mia qua? Poi di voce mia, pizzi. Ok. Pizzi. Oh, prova. No, facciamo tutte ste pugnette, poi siamo disorganizzati, okay. Non vi preoccupate. Allora, dai, possiamo cominciare. Innanzitutto ringraziamo Pelle. Tutte le persone che hanno dato una mano a lui, al Cox 18, è la nostra prima data con il nuovo disco in mano dopo 1000 anni. Ci aveva chiesto Pelle di fare la prima volta qua a Milano. In realtà lo facciamo con piacere e in posti del genere noi ci sentiamo a casa. Vogliamo solo adesso dire due cose e poi cominciamo. Innanzitutto ci piace la vicinanza, l'allegrezza e l'ignoranza. Birra, fumare... Ah, ci siamo dimenticati le birre, quindi se qualcuno ci induce qualche birra siamo contentissimi. Se riusciamo ad avere dei riferimenti culturali del luogo, so che qua milanesi non ce ne saranno, però dei modi di dire abbastanza offensivi ci piacciono, perché così impariamo, diciamo, il gergo del luogo. Adesso invece, prima di cominciare, vogliamo leggere due righe che vengono da un compagno che è in carcere. Qui a Milano, non è tutto intero il suo comunicato, ne vogliamo leggere una parte. Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cos'è veramente il 41 bis. 750 persone lo subiscono senza fiatare, mostrificati di continuo da mass media. Ora tocca a me. Mi avete prima mostrificato come il terrorista sanguinario, poi mi avete santificato come l'anarchico martire che si sacrifica per gli altri. Adesso mostrificato di nuovo come capo della terribile spectra. Quando sarà tutto finito non ho dubbi, portato sugli altari del martirio. Grazie, no, non ci sto ai vostri sporchi giochetti politici, non mi presto. In realtà il vero problema dello Stato italiano è quello che non si venga a sapere tutti i diritti umani che vengono violati in questo regime. Il 41 bis, in nome di una sicurezza per la quale sacrificare tutto. Beh, ci dovete pensare prima di mettere un anarchico qui dentro. Non so le reali motivazioni o le manovre politiche che ci sono dietro, il perché qualcuno mi abbia usato come polpetta avvelenata. In questo regime era abbastanza difficile non prevedere quali sarebbero state le mie reazioni davanti a questa non vita. Uno Stato, quello italiano, degno rappresentante di un'ipocrisia, di un Occidente che dà continue lezioni di moralità al resto del mondo. Il 41 bis ha dato lezioni repressive ben accolti da Stati democratici come quello turco e quello polacco. Sono convinto che la mia morte porrà un intoppo a questo regime e che 750 che lo subiscono da decenni possano vivere una vita degna di essere vissuta, qualunque cosa abbiano fatto. Amo la vita, sono un uomo felice, non vorrei scambiare la mia vita con quella di un altro. E proprio perché amo questa, non posso accettare questa non vita senza speranza. Grazie compagni del vostro amore, sempre per l'anarchia, mai piegato, Alfredo Cospito. La nostra solidarietà è totale alla lotta che fa Alfredo per la sua vita. La nostra solidarietà è totale per Anna e per Juan che vogliono essere tumulati dietro una gabbia. La nostra solidarietà è totale per qualunque prigioniero e rinchiuso in qualunque gabbia di questo mondo. Nei nostri cuori, nella nostra testa, l'odio rimane sempre. Vai maestro. Let's go! abbiamo un problema di liquidi, acqua, lemon soda, birra preferibilmente. Ci siamo dimenticati, se no possiamo morire. Siamo una banda di ignoranti. Abbiamo fatto tante ore, ma abbiamo il cuore pieno di gioia per essere qua. 10 ore che ne vale tutta la pena. No, no, ho solo sbagliato. Signor dottor Cicala? Cicala? Il batterista è un fantastico. Altro pezzo, altra ruota. Comunque, chi si vuole avvicinare si avvicina, perché altri due pezzi così e poi noi scendiamo. Di solito ci abbiamo questa abitudine. Abbandoniamo lo stronzetto là dietro, poraccio, lui e i suoi piatti, e noi scendiamo giù. Ma se scendiamo giù è peggio, puzziamo, siamo antipati. Stiamo tutti più vicini, è tutto più allegro, tutto più movimentato. Questo pezzo si chiama Il mio tempo. Vai maestro! Yeah. Grazie mille. Bella! Quindi quella piena. Via. Noi offriamo i sorsi, se ci volete offrire da fumare, noi siamo persone felici e disposte e disponibili. Comunque lì abbiamo un banchetto con una piccola distro, con qualche libro, una maglietta, un CD a chi ci vuole sostenere, chi ci vuole far tornare a casa così lontano, vuole far continuare questo progetto che va avanti da 10 anni dopo mille difficoltà. Questo pezzo, un piccolo appunto, ci è voluto dei morti, ci sono voluti dei morti sulle spiagge per far vedere all'Italia, ma perché a cazzo magari dell'Europa, ma dove viviamo noi, che il Mediterraneo, e nessuno se lo ricorda mai, è il più grande cimitero d'Europa. E non sono quei morti che sono arrivati là, perché in quel mare ne muoiono tanti, tanti, tanti. E nel 2023, mamma mamma, se ci scandalizziamo per un corpo di un bambino morto su una spiaggia. Siamo arrivati a livelli veramente, veramente, veramente bassi. Io credo che le persone che sono qua o che frequentano questi posti hanno quella spinta che in questo mondo non si trova più e che in un momento storico come questo sarebbe molto utile, meno concerti, molta più strada. Questa l'ha detto veramente col cuore, perché ci stanno togliendo qualunque minima libertà. Tra un po' non possiamo anche fare una scritta su un muro e ci prendiamo 4 anni di carcere. Questo è per tutte le persone che hanno il coraggio, rispetto di noi occidentali che viviamo negli agi, di rischiarsi qualunque pelo del culo per andare in un altrove che sarà peggio di dove arrivano, ma intanto ci provano. Vai maestro. We'll be right back. questo è un pezzo proprio antico, antico, antico, 10 anni fa, primo pezzo che abbiamo fatto allo studio di Diego, il buon HC Lab, che ha dato una mano un po' in Puglia a far uscire tanti gruppi della scena hardcore. Ci teniamo particolarmente, ma neanche no, ci divertiamoci. Voi comunque siete un pubblico di merda, come si dice, perché non abbiamo sentito nessuna. Che si dice a Milano? Uè, ciccia, non lo so, è il panettone. Non c'è un modo di dire. Ma esiste un milanese in questo porco di tipo? Non esistono più, no? Tutti del sud. D'accordo. Va bene. Allora, pancio alle ciance, ciancio alle bande. Vai maestro! Gira un'altra corsa, vai maestro, vedi veloce. Thank you. pranzo qua a Milano, porco Dio, sembra che stare in Sicilia, eh? Ma ci facciamo anche le lampade, dici? Lampada free. Sta sculamo! Davvero! Angolo d'ostia! Sto pezzo parla di quei pezzettini di carogna molto pericolosi che hanno una vita così misera che perdono a fare foto, a cercare di investigare, insomma, quei merdi della Digos dei Ross. Questo con tutto il cuore per noi, se stanno appesi qua vicino a Piazza Loreto, è solo una felicitazione. Vai maestro! È bella la soglia dei 40 anni, ti preghi veloce, ti manca prima il piano. Grande, grande. Già si sta più presto. Questo pezzo lo vogliamo dedicare ai compagni trentini, compagni inquisiti dall'operazione Renata, a Sasha, la nostra compagna che sta già a Taranto, a Rupert, a Pozza che sono in carcere, agli altri indagati di questa inchiesta di merda, a Federica, indagata per altri reati con cui abbiamo fatto questo pezzo. Noi in Trentino abbiamo lasciato un pezzo di cuore. Ci sono belle persone, veramente bei compagni. Questo lo dedichiamo a loro. Solidarietà, Vagnù, sempre e comunque a chi ha il coraggio di lottare in questa vita di merda. Oh, yeah! Questo pezzo c'è poco da dire, parla di carcere, molto brevemente, fuoco a qualunque galera. Siamo idioti e seri allo stesso momento, una rarità. Fuoco alle gabbie, soprattutto quelle fisiche, ma anche quelle mentali, perché in testa ce ne abbiamo parecchie. Vai maestro. Contentezza mille, allegrezza, non vi possiamo dire, gioia per i nostri cuori, felicitazioni dopo tanti anni che non salivamo al nord, al nord, perché noi veniamo dal sud, sud, e quindi la possiamo chiudere qua, grazie, grazie mille. We'll be right back. Thank you. Regno. Grazie di cuore.